cose, se ti piace per moglie, ci vorremmo altre cose. Una bella in cento spose, una bella in cento spose, le potrebbe carina. Ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una felicetta sposa, una felicetta sposa, le potute camminare, le potute camminare, le potute camminare. Vuoi bellezza, vuoi ricchezza, grazie, amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna singolar, è una donna, è una donna singolar. Vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi amore, vuoi amore, vuoi amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna, è una donna, è una donna singolar, è una donna singolar, è una donna singolar. Schietta, e tutta lei, e tutta lei. Per esempio, io vorrei i due negli occhi. Son due stelle, son due stelle. Chione, nere. Guance, belle. Chione, nere. Volto, bello. Ed ogni parte a cui mi inciampo, che da dire che la fare. Caro amico, non ci scappo, se la vede che scappo. Se fammi con voi, caro amico, non ci scappo. Non la vieni per la fare. Se la vede che scappo, che scappo, che scappo, che scappo, che scappo. Thank you. Tenda sorte, e osso fare differente. Sarà, sarà, quel che sarà, non pensando. Al mio foto, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro triunfano velo quando dote a quest'alma sarà. Voi partite, m'annoiate, partite, m'annoiate, non seco, non passiarche, non venite, non venite. Al mio fuoco, al trasporto, al desirio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo novello quanto dote a quest'alma sarà, quanto dote a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dote a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma sposto l'ascello a saltar e non attende altri che noi. Voi sospirate. Almeno ch'io possa ancora volta riveder Mustafa. Sol questo io bravo. Pria di parli ti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor, fate a mio modo, affrettiamoci partiti allegramente, e voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete quanti può una donna bramar, mariti e amanti. Il mio cuore Oh, fosi in ador mia moglie. Il nostro vincolo, cara per te, si scioglie. Questi che tu mio schiavo, si deve lei sposar. Questi che tu mio schiavo, si deve lei sposar. Questa non è cosa. Resti colui mio schiavo. No, questo, ma questo non può stare. Andate dunque al diavolo, andate dunque al diavolo, voi non sapete amar. Ah no, ma ascolta, ma che da me? Oh, costei mi fai forzar, costei mi fai forzar, costei mi fai forzar. Thank you. e fin me stesso mio su questo lido trovo l'indoro e lo ritrovo il fido or ti divento a nota resta abbonata Isabella in che peccai che mi fuggi così lo chiedi ancora tu che sposa del vino io e di con burla non di sposarla ho detto e sol mi imbussi per desio d'abbracciarti mi creder posso m'incendi sia un fulmine se mai pensai tradir la nostra fede al cuore che caro l'amor mio la notte breve che far d'aggi fuggir dobbiamo insieme quelli stesso voce qualche raggio